Ciao, tu, animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki boom boom boom. Hey, tu, anima indifesa, conti tutte le volte in cui ti sei arresa, stesa al filo teso delle altre opinioni, ti agiti nel vento di chi non ha emozioni. Mai più, è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé. Laggiù, tra cani e porci, figli di un dio minore pronti a colpirci per portarci giù con sé, giù con sé. No, no, no, no, no, no, noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No, no, no, no, no, no, noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Ciao tu, freak della classe, femminuccia vestito con quegli strass, prova a fare il maschio, ti prego insisto, fatti il segno della croce poi rinuncia a Mefisto. Ehi tu, anima in rivolta, questa vita di te non si è mai accorta, colta di sorpresa, troppo colta, troppo assorta, quella gonna è corta. Mai più, è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé. No, no, no, no, no, no, noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No, no, no, no, no, no, noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Siamo chiese aperte tarda sera, siamo noi. Na na na na na na, noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. Na na na na na na, noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki boom boom boom.